basso. E benvenuti in una nuova puntata di Hey Listen. Siamo in onda dal Brancaleone, seconda puntata, secondo episodio. Ringrazio il Brancaleone per i suoi spazi, appunto, che ci dedica per poter fare una nuova scoppiettante puntata, appunto, di questo programma. Ringrazio il gruppo Gemini Network, Radio Grad, Radio Sonar, le chat e i social che ricordo di seguire per avere aggiornamenti sui vari programmi, compreso questo. Allora, la puntata di oggi è una puntata particolare, è la prima volta che mi approccio, diciamo, ad avere un ospite. Non che Pietro non sia stato un ospite gradevole, anzi... Sono un ospite serio. Ma no, è un ospite più che serio, poretto, un povero Pietro, non volevo assolutamente sminuirlo, ma abbiamo con noi nella puntata di oggi un ospite che a me fa molto piacere, appunto, avercelo, in quanto non solo grande amico, ma anche persona che, appunto, ha avuto modo di sfondare, diciamo, nel campo dei videogiochi. Senza sminuire, cioè, vincere un premio di una portata importante come i Game Awards comunque non è esattamente una cosa da poco, ma ci arriveremo con calma. E diciamo che la tematica di questa puntata è inerente principalmente le visual novel graphic novel, ovvero le avventure grafiche, testuali, insomma, chiamatele un po' come meglio credete. E però, prima di arrivare a questo argomento, ho deciso di fare un piccolo cambiamento rispetto alle altre puntate, ovvero introdurre nella parte iniziale una sorta di telegiornale, chiamiamolo così, dove parlerò delle prime notizie, diciamo, più rilevanti, o perlomeno quelle che mi sono arrivate tramite, diciamo, vari link nell'etere, nei vari siti che ringrazio per la loro per il loro servizio. Allora, l'ospite comunque di oggi, oltre a essere, appunto, un grande game designer, come dicevo, è anche un grande videogiocatore, ha avuto con me alla stessa passione dei videogiochi, ha avuto modo di giocare, appunto, titoli Nintendo principalmente, per poi spostarsi anche su altri lidi tipo l'Xbox, Microsoft, insomma, queste cose qui. E visto che ci siamo, io volevo parlare con lui anche di una cosa che magari non so se conosce, ma tipo tra oggi e domani dovrebbe uscire su Nintendo Switch un grande gioco che è uno spin-off di uno spin-off, probabilmente. Quello di Peach, esattamente, e si chiama Princess Peach Showtime. Allora, diciamo che questo Princess Peach Showtime, come ho già detto, sembrerebbe essere, almeno da quello che è stato visto fino ad adesso, ma anche dai giudizi che si possono trovare online tramite le varie recensioni, insomma, che sono uscite proprio in giornata odierna, è un gioco in cui per una volta non si è Mario, per una volta non si è Luigi, per una volta si è Peach, che non la devi salvare, stranamente. Solitamente i titoli, appunto, first party di Nintendo che escono nel giro di poco tempo riescono ad ottenere una media circa dell'8, del 9, insomma, poi dipende dal gioco. Questo, purtroppo, sta ottenendo, almeno stando a quello che dicono diversi siti, una media circa del 7,5, dell'8. Ora, io non ho avuto modo di poterlo provare, proprio perché uscirà a momenti, però la tematica, che comunque è particolare, dove tu, appunto, per una volta usi, come ho già detto, la principessa Peach, era già capitato in passato, nel senso con proprio un altro spin-off uscito per Nintendo DS. In questo caso, diciamo, vuoi che sei Peach, vuoi che i nemici non sono esattamente gli stessi che puoi trovare nei vari giochi di Super Mario, Diciamo che la stampa ha tendenzialmente ha cercato di premiarlo, ma neanche così tanto, nel senso non vedo proprio che si siano sbilanciati, cioè qua leggo addirittura 6, 5, 7 più, 7 più come a scuola, no? Capito? E quindi niente, quindi purtroppo questo gioco sta avendo questo rating basso, però mai dire mai, magari in futuro potrebbe ottenere una valutazione migliore. E poi comunque io lo trovo, ribadisco, la trovo una scelta molto coraggiosa e diciamo giusta con i tempi, insomma, moderni e per una storia e poi comunque anche se è un po' infantile, almeno da quello che pare leggendo dalle varie recensioni, sembra comunque anche adatta a un pubblico tutto sommato adulto. E in onore della principessa Peach, io metterei un pezzo chiedendo alla regia che è dedicato proprio a lei. E questo era il tema, diciamo, di Super Mario rivisitato con anche la principessa Peach, preso da Super Smash Bros., un gran gioco, diciamo, picchiaduro made in Nintendo con un roster variegato di personaggi, appunto, della Nintendo e non solo, perché comunque nel corso degli anni hanno aggiornato il gioco mettendoci personaggi provenienti anche da altre IP, tipo ad esempio Banjo-Kazooie, Persona, Joker di Persona 5 e tante altre. A proposito di Persona e di Banjo-Kazooie, avremo modo, come ho già detto nel corso di questa puntata, di parlare di Visual Novel e Banjo-Kazooie, in realtà Nintendo 64. Perché? Perché vi vorrei parlare proprio di un'altra notizia che è uscita da poco, ovvero che è uscito un libro che sulla falsariga di altri libri già dedicati ad altre console, come ad esempio il Commodore 64 e tanti altri, insomma, altre console, diciamo, piuttosto datate, è riuscito a ottenere diciamo, a raggiungere l'obiettivo nella creazione, appunto, di un libro dedicato principalmente sulle opere visive del Nintendo 64. Io, onestamente, da grande amante dei titoli retro, ma anche e soprattutto dei giochi marchiati Nintendo e del Nintendo 64, spero nel mio piccolo che possa magari essere, diciamo, disponibile anche in Italia, qualora qualcuno fosse interessato, può essere acquistato solamente online. È uscito questo libro che sostanzialmente appunto fa vedere tutte le varie opere del Nintendo 64 tramite delle immagini che ripercorrono proprio il periodo storico del Nintendone, come veniva chiamato. Ed è molto interessante. Diciamo che l'editore, che si chiama Bitmap Books, ha a disposizione questo libro, quindi qualora qualcuno fosse interessato appunto all'acquisto, può recarsi appunto sul sito e acquistarlo e farsi, diciamo, una cultura con le opere del Nintendo del periodo appunto del 64. E l'ultima notizia della giornata invece di oggi non c'entra molto anzi, non c'entra affatto né con Peach né tantomeno con Nintendo 64, ma parla più che altro di una curiosa collaborazione che Konami ha fatto con, diciamo, con un anime giapponese molto rilevante. Per tutti gli amanti del calcio, penso sia impossibile non poter parlare eventualmente di PES, FIFA o FC, diciamo, adesso è stato rinominato così da Electronic Arts. Comunque, la serie invece di PES, che invece attualmente si chiama eFootball 2024, con Konami ha avuto appunto il piacere di fare appunto una collaborazione con l'anime Blue Lock, che è un anime che per chi non conoscesse, ovvero io, vabbè, vi spiego. Diciamo il concetto di anime, semplicemente per chi non conosce questo termine, si intende cartone animato giapponese. Spero che invece chi conosca il termine anime non mi linci, perché non era, diciamo, mia intenzione denigrare. Comunque, Blue Lock, che è un anime che parla sostanzialmente di una squadra, diciamo, di calcio, di squadre, insomma, c'è tutta una storia inerente appunto al mondo del calcio. Ebbene, eFootball ha deciso appunto di fare questa collaborazione, che è una sorta di crossover. Probabilmente dopo aver festeggiato l'importante traguardo dei circa 700 milioni di download, e diciamo che dall'opera firmata Munehike Neshiro saranno presenti alcuni gadget, come ad esempio carte basate tipo su Blue Lock, che includono personaggi come Poinzaghi e Takefusa Kubo. Quindi potrebbe essere, diciamo, un fattore abbastanza interessante. Ci saranno pure kit in versione limitata e delle preziose ricompense, con bottini addirittura 90.000 esperienze a 60.000 GP, quindi, ovvero le monete, diciamo, sempre parlando in gergo videoludico, di eFootball, ma pure altri gadget. Insomma, una curiosa collaborazione. Detto questo, diciamo, l'angolo delle notizie della giornata odierna, per fortuna, diciamo, finiscono qui. Non è stata, diciamo, al contrario della puntata scorsa, una puntata degna di notizie importanti, come appunto ho detto purtroppo la dipartita di Toriyama, ma anche il compleanno di Super Mario e così tanto come gli Oscar. Se volete, appunto, potete riascoltare i podcast su Archive, ma anche sui nostri social, dove appunto vengono, cioè ci sono appunto i link appositi dove poter interagire. Detto questo, io vorrei introdurre il mio ospite, che parleremo appunto dell'argomento principale, ovvero le visual novel e le avventure grafiche, ma soprattutto il suo prodotto, ovvero Nostalgici Anonimi, che scopriremo a breve. Ma prima di introdurre appunto l'ospite, che si chiama Jacopo Mascolini, beh, io dedico questo pezzo a lui perché è un pezzo che comunque fa parte, volente o nolente, anche dei videogiochi. E credo che possa piacere a tutti. Partiamo con i Block Party con Helicopter. E questo erano i Block Party con Helicopter. Pezzo musicale famosissimo, tra l'altro io ho ricordi sempre con Jacopo che mi ha fatto conoscere lui appunto i Block Party. Perché? Perché nei pomeriggi di tanti anni fa, parliamo del 2006, su FIFA, il gioco appunto calcistico che stavo citando precedentemente, c'era questa traccia musicale. E poi lui, insomma, si era messo a sentire i Block Party, nel senso si è fatto comunque una cultura con la musica underground, indie e di vario genere, e ho avuto modo, insomma, di apprendere anche io questo grande genere musicale. Tra l'altro, sempre questo pezzo è presente, se non vorrei sbagliarmi, anche su Guitar Hero 3, Legend of Rock, ma potrei sbagliarmi comunque. Gran pezzo musicale, grande scelta, grazie Jacopo per essere presente qui con noi. E parliamo appunto delle visual novel. Allora, cosa sono le visual novel? Io introduco questo argomento semplicemente perché il gioco che ha preparato Jacopo con il suo team è un gioco che appunto presenta queste caratteristiche, anche in realtà di avventure grafiche. Quindi non è solo una visual novel. Diciamo che le visual novel sono dei giochi, diciamo, punta e clicca, diciamo, nel senso, mi spiego meglio, ci sono dei personaggi dove c'è un'avventura grafica in cui il personaggio giocante può fare alcune decisioni e in base alle decisioni che sceglie succedono degli eventi. La caratteristica principale, diciamo, delle visual novel è lo stile principalmente, non tanto il gameplay, perché il gameplay è comunque anche simile alle avventure grafiche, che comunque si differenziano per un'interattività, diciamo, differente rispetto alle visual novel. Non di tantissimo, però sempre differente. Cioè, solitamente le visual novel sono appunto 2D e presentano dei personaggi che a livello visivo sono simili a degli anime o comunque personaggi di caratura giapponese. E non è un caso che le visual novel siano uno dei generi più, diciamo, apprezzati in Giappone, nel sollevante. Negli altri paesi pure, cioè, si è iniziato poi pian pianino, vuoi o non vuoi, proprio con l'importazione di titoli appunto prettamente giapponesi. Mi viene in mente Doki Doki. E quindi diciamo sostanzialmente questo è il genere delle visual novel, ovvero appunto come detto una storia con un elemento diciamo animato in 2D che a seconda delle scelte che tu vai a scegliere, perché solitamente c'è un testo scritto e su questo testo scritto tu interagisci, vedi anche le reazioni in tempo reale ovviamente dei personaggini a seconda di come vengono animati. E poi fai delle scelte dal testo e quindi in base alla scelta che vai a fare, poi sostanzialmente succede qualcosa nella storia. L'avventura grafica invece è leggermente diversa perché sì, è anche quella in 2D, però può essere anche in 3D e soprattutto ha degli elementi un po' più interattivi, diciamo, un po' più punta e clicca, ovvero hai una stanza e all'interno di questa stanza magari ci sono degli elementi che ti servono per risolvere degli enigmi e quindi tu clicchi sull'elemento, poi ti fa fare magari delle scelte diverse. Mi vengono in mente tipologie di questi giochi molto famose, il top di gamma, Monkey Island, Grim Fandango, oppure qua c'è proprio una super citazione che penso in pochissimi conosceranno, però io e Jacopo lo conosciamo perché comunque abbiamo avuto modo sempre da bimbi di giocarci. Un gioco tutto italiano, ribadisco, italianissimo, si chiama Il mistero dell'Ape d'Oro, Fuzzi e Floppy, che già, insomma, è un nome un po' particolare, che anche questo presentava appunto elementi punta e clicca. Anzi, la principale base di gameplay era proprio quella. Esistono diversi varianti, insomma, del genere, sempre delle avventure grafiche. Gli anni d'oro, diciamo, sono sempre stati intorno alla fine degli anni Ottanta, diciamo, tra i vari Monkey Island, appunto, Grim Fandango. E tutto ciò è per introdurre, appunto, Nostalgici Anonimi, che, insomma, presenta delle caratteristiche molto simili, ma prima di farlo io introdurrei un altro pezzo musicale, ovvero il tema principale di Nostalgici Anonimi. Thank you. E questo era uno dei temi di Nostalgici Anonimi. Ci tengo a presentare il mio ospite che è Jacopo Mascolini, nonché insomma, storyteller e game designer e titolo qui presente. Mi scuso con gli ascoltatori per non essermi invece presentato precedentemente io, perché magari do per scontato che qualcuno sappia chi sia, ma in realtà non è detto. Quindi io sono Andrea D'Ameli, questa è Listen, un programma presente nel pianeta di programmi dei Pirate Radio. Sono felice appunto di poter fare questa intervista con Jacopo, che conosco prima di questa esperienza da tantissimi anni. Abbiamo avuto modo di giocare da piccoli appunto a diversi videogiochi e sono veramente contento perché comunque è un ragazzo che ha veramente tanta fantasia, tanto lavora con tanta passione, ha ottenuto un riconoscimento importantissimo come l'Italian Video Game Awards come Best Applied Game del 2022, ma la premiazione c'è stata l'anno scorso, quindi alla fine diciamo sempre, comunque sempre una premiazione importante di un titolo prestigioso come Nostalgici Anonimi. E quindi io vorrei passare la parola all'ospite, appunto, che è Jacopo. E prego. A tutti, allora io mi introduco velocemente su chi sono, cosa ho fatto prima di tornare a parlare di Nostalgici Anonimi. E allora io sono uno, diciamo, storyteller, che è il termine ampio per dire che scrivo cose per lavoro, quindi da pubblicità a serie TV, videogiochi, insomma, dove c'è bisogno io vado. Quindi ho avuto un percorso multidisciplinare che è iniziato appunto dalla scuola Holden studiando sceneggiatura e poi sono finito in pubblicità dove ho fatto varie cose e niente, poi sono approdato grazie all'Istituto di Ortofonologia e Magda Di Renzo al mondo dei videogiochi, dove abbiamo potuto fare Nostalgici Anonimi nell'arco di un anno e che poi insomma, di cui parleremo a breve dopo quest'altro stacco musicale. Ok, Jacopo, grazie. Allora, quest'altro stacco musicale è stato scelto sempre dall'ospite qui presente. Abbiamo American Football Never Mind. O Mind. Vado. Regia. E questo era il pezzo Nevermind American Football scelto da Jacopo, che è qui presente per l'intervista dedicata al nostro gioco, che è, scusate che mi si è bloccato l'audio. Ok, dicevo, Nostalgici Anonimi. Perdonatemi il bello della diretta, ogni tanto succedono dei piccoli incidenti. Allora, Jacopo, tanto benvenuto. Quello che ti vorrei chiedere è, puoi darci una panoramica generale su Nostalgici Anonimi e qual è, diciamo, anche la sua premessa di base e quali sono i suoi punti di forza? Prego. Allora, Nostalgici Anonimi è, come hai introdotto anche tu, una visual novel e avventura grafica dove sostanzialmente si vince scoprendo dettagli sui personaggi e sul cattivo del gioco attraverso scelte di dialogo e trovando i dettagli in giro per la stanza cliccando. Quindi, ed è un gioco nato, finanziato dall'Istituto di Ortofonologia all'interno del gruppo di ricerca Ritirati ma non troppo, che era specializzato appunto sul fenomeno Hikikomori. E quindi l'obiettivo era creare un gioco che fosse uno strumento per i ragazzi per entrare in contatto con le proprie emozioni e uno strumento per gli adulti per dialogare meglio con i ragazzi. Però il gioco non ha assolutamente nessuna finalità terapeutica o didattica. È prima di tutto un gioco che tu giochi, ti diverti e poi gli addetti ai lavori sanno usarlo come strumento e sanno riconoscere certi comportamenti nel gioco. Però se tu ci giochi da solo, a posto così ed è divertente uguale. Su questo proprio non ci sono dubbi. Non a caso ha vinto un premio così prestigioso come il Best Applied Game 2023 degli Italian Video Games Awards. Ci tengo a ribadirlo perché è veramente un premio prestigioso e importante. È come se avesse vinto gli Oscar diciamo, del cinema, solo che in tematica videogiochi e in Italia, il che Grazie. non è scontato, ve lo posso garantire. Allora, invece, parlando di una parte, diciamo, un po' più sostanziosa, le ispirazioni e le creazioni, diciamo, dei personaggi, no? O comunque della storia, del gioco. Allora, quali sono state le principali ispirazioni dietro, appunto, Nostalgici Anonimi? Ah, grazie intanto per le belle parole, sono sempre, sempre molto contento. Andrea, appunto, è un amico da una vita e sono contento di essere qua alla radio dove fa il programma. E quindi, ecco, come diceva anche lui, l'ispirazione sono ovviamente i tanti videogiochi a cui ho giocato negli anni, molti dei quali con lui, con Andrea. Esatto. Super Mario Super Mario 64, 64, Crash eccetera. Però, nello Bandicoot. specifico, qua stiamo parlando, come diciamo, di visual novel e di avventure grafiche. Quindi, il gioco. C'era questo fumettista italiano che si chiama Pane Barco, che aveva già citato Andrea, che ha fatto varie avventure grafiche, tra cui quello delle api e anche il mistero di Venezia, che era mo insomma sono molto simpatici. Però, diciamo, poi entrando nello specifico, quando abbiamo studiato, ho studiato come. Quale visual novel fare, come farla, sono andato a studiare le visual novel più popolari, tra cui c'era Doki Doki, che è sicuramente quello più per stile e per anche tipo di interazione con i personaggi, anche ambientazione, perché come Nostalgici Anonimi è ambientato in un'aula scolastica, ma anche c'è stato soprattutto Disco Elysium per il tipo di approfondimento psicologico, e dato che c'è una componente di gioco di carte all'interno del gioco, che vedremo più in là, che è stato, nel corso dell'intervista vedremo, mi sono ispirato a Dixit, Intuiti, tutti quei giochi dove le carte hanno una funzione di, appunto, di storytelling, hanno una funzione di raccontare una storia. E quindi, insomma, se non è un problema, logicamente, se non ci stanno dietro, diciamo, NDA o cose, insomma, segreti professionali o quel che si voglia, non è che per caso puoi raccontarci il processo creativo dietro alla realizzazione, diciamo, proprio di questa visual novel, al di là delle proprie ispirazioni, cioè proprio cos'è che ti ha spinto a farlo, cioè come ci sei arrivato? Allora, è sicuramente stato, come dicevo, tutto nasce da Magda Di Renzo, che è del gruppo teorico dell'Istituto di Ortofonologia, Ritirati ma non troppo, che loro mi hanno sicuramente fornito una panoramica approfondita e ampia. Abbiamo anche potuto studiare insieme e dialogare in delle sedute di gruppo, insomma, tra di loro, questo fenomeno Hikikomori, capirlo, capire le problematiche dei ragazzi, le tematiche a loro più vicine e cosa comporta. Insomma, le loro problematiche e le tematiche che affrontavano. E diciamo, il processo creativo di questo gioco appunto è nato dopo questo confronto con loro. Io ho costruito tutta la storia, il narrative design e il game design, che ho confrontato e sono stato supportato anche da Mauro Giulietti e Giorgio Anello, che sono psicologo, Mauro e Giorgio, educatore, che mi hanno aiutato appunto ad elevare questo narrative design e insomma la storia del gioco, il gameplay che volevamo portare avanti con delle finalità, appunto, cioè non con delle finalità, inserendoci dentro, diciamo, delle tematiche junghiane, degli archetipi junghiani, per appunto rendere più funzionale, più efficace, più forte questo tipo di gioco. E poi sì, e poi c'è stata Ilaria Treppiccioni, che ha realizzato la grafica e le carte del gioco, che quindi hanno permesso di dare vita, insomma, a questa visione che avevo iniziato con, appunto. E poi tutto è stato, diciamo, elevato ancora di più dalle musiche di Federico Bianchi, e poi ci sono stati David Burioni e Mario Albise Di Bernardo, che hanno sostanzialmente programmato il gioco unendo tutte queste componenti. Ma visto che parliamo di musica, vogliamo scegliere un altro pezzo magari dedicato proprio ai ragazzi, diciamo, protagonisti anche dello stesso gioco? A tua scelta, Jacopo, sei qui. Kira. Kira? E via di Kira. Bene, ragazzi, questo è il tema di Kira. Attenzione, non di Death Note, eh? E torniamo in diretta su Elisten. Allora, questo era il tema di Kira, un personaggio appunto di Nostalgici Anonimi. Ricordiamo che in diretta abbiamo Jacopo Mascolini, storyteller, game designer, game director e narrative designer di Nostalgici Anonimi, quindi tutto. No, non è vero, senza sminuire anche gli altri bravissimi ragazzi che hanno lavorato con lui, compreso il compositore Federico Bianchi, che comunque ringraziamo per questo pezzo che ha creato lui. Ma visto che appunto è un pezzo dedicato a un personaggio e si chiama Kira, ci puoi parlare un po' di questi personaggi di Nostalgici Anonimi? Cioè il background, quali sono gli obiettivi, diciamo, all'interno del gioco e tutta, insomma, la lore? Prego. Allora, Nostalgici Anonimi è ambientato in un futuro distopico dove è vietato provare emozioni, quindi se tu provi emozioni sei considerato malato proprio, e quindi sono stati istituiti questi gruppi tipo appunto alcolisti anonimi, dove tu vai per parlare dei tuoi problemi, cioè non vai, sei proprio costretto ad andare per parlare dei problemi legati al provare emozioni e dal... che si manifestano anche e soprattutto attraverso la nostalgia verso prodotti culturali del loro passato, perché in questo futuro appunto quello che per noi è la cultura pop del presente è è il loro passato. E come dicevi anche tu, ci sono questi, quando tu arrivi in questo futuro ti ritrovi con il terapeuta androide che si chiama Angel, che è il cattivo del gioco, e i tre ragazzi Kira, Mike e Kyle, e tu puoi scegliere attraverso le tue scelte se schierarti col cattivo o quindi schierarti col cattivo e lavorare per annientare le emozioni di questi ragazzi, o schierarti con i ragazzi per usare, diciamo, le emozioni per sconfiggere il cattivo. Ma chi sono nello specifico, mi dicevi tu, i ragazzi in cura in questo posto? Partendo da Kira, lei, cioè ci sono una serie di hint nel gioco, dal tema musicale a come sono vestiti, sui prodotti culturali che amano e sulle emozioni che loro provano. Quindi Kira è una ragazza remissiva e legge al dovere, che è fan di Star Wars, e tutti hanno delle problematiche che appunto sono simili a quelle che proviamo noi e che provano i ragazzi di oggi, e lei ha delle problematiche con la sua famiglia e il dover trovare un equilibrio tra bene e male, tra rabbia e pazienza. Quindi lei vorrebbe tirare fuori questa sua rabbia, ma non lo fa ed è lì già il dovere, ed è anche autolesionista, povera Kira, ecco. E però è una grande fan di Star Wars, quindi il suo abito è ispirato a Kylo Ren. E poi abbiamo, tra gli altri personaggi, abbiamo Mike, che è un ragazzo di colore, che la sua caratteristica principale è la rabbia, ed è un amante di Evangelion, come si può vedere dal suo tema musicale, anche da come è vestito, e lui, come in Evangelion, ha un rapporto problematico col padre soprattutto, e sempre con la famiglia, però specialmente col padre, ed è appunto un ragazzo che ha subito bullismo ed ha molta rabbia nei confronti della società. L'ultimo personaggio invece è Kyle, che è una persona non binaria, che è timido ed è amante dello studio Ghibli, il cui tema musicale è ispirato anche al mondo dello studio Ghibli, anche con le sue spille, e lui appunto è vestito in un modo che copre tutta la sua forma, perché ovviamente la società del futuro, ma purtroppo succede anche nella società di oggi, le persone non binary non hanno anche spesso disforia di genere e non possono manifestare, non possono mostrarsi realmente per quello che sono, perché sono criticati. E lui appunto non ha avuto un'infanzia molto felice, e lui vorrebbe però tornare a un'innocenza che ormai ha perduto. Bene, con questa introduzione di personaggi così profonda, personaggi comunque molto interessanti, io direi di sentire anche il tema dedicato appunto a Kyle, e quindi eccolo qui. E questo era il tema di Kyle, personaggio introdotto poco fa appunto da Jacopo in Nostalgici Anonimi. Allora, Jacopo, qui vorrei parlare un attimo di un tema inerente appunto all'esperienza del giocatore con il videogioco, con appunto Nostalgici Anonimi. Intanto, se sai dirmi appunto qual è l'esperienza che vuoi offrire, anzi che volete offrire con Nostalgici Anonimi, e se ci sono eventuali, cioè quali sono il tipo di emozioni e riflessioni che spera insomma di suscitare il titolo nei giocatori mentre vivono questa esperienza. Ok, abbiamo detto comunque un titolo dedicato anche agli hikikomori, quindi comunque diciamo un tema sociale molto, molto importante. E se eventualmente ci sono anche particolari dettagli o segreti nascosti all'interno del gioco che i giocatori dovrebbero cercare di scoprire. Allora, grazie per la domanda, i temi, per questa importante cosa di cui parlare. E allora, come dicevamo, il gioco appunto è un gioco che vuole stimolare al dialogo e all'entrare in contatto con le proprie emozioni e anche... soprattutto appunto questo lo fa attraverso sia le scelte del gioco ma anche attraverso l'interazione con l'ambiente nelle parti di avventura grafica. Ci sono dei momenti nel gioco nel quale sono ambiente di gioco nel quale uno può cliccare per scoprire dettagli. La cosa è che ogni scelta, ogni indizio che trovi sblocca nuove linee narrative e nuovi finali, quindi la tematica principale del gioco sostanzialmente voleva essere proprio le emozioni come concetto più ampio, cioè come gestire le emozioni, quindi sia per usarle contro il cattivo o per usarle contro i ragazzi, contro di loro stessi, e abbiamo voluto incentrare il tutto in un tema principale che il cattivo del gioco ti fa nel gioco, che sostanzialmente è cosa vedi allo specchio, perché questo ovviamente stimola una riflessione su se stessi, perché dici cosa vedi allo specchio e su cosa ti stai confrontando. E quindi questa cosa nel gioco la facciamo attraverso le carte, come dicevamo sono stati costruiti attraverso gli archetipi junghiani, quindi giorno, notte, femminile, maschile come concetti proprio archetipici, e queste carte devono essere scelte come risposta a questo tema. Nel gioco, una volta che tu scegli questa carta, anche gli altri personaggi scelgono la carta, quindi tu hai modo di entrare in conflitto o in empatia con i personaggi in base proprio alla carta che scegli. E la cosa stimolante è che il cattivo del gioco dà una sua interpretazione, ovviamente negativa, perché dice, ah, tu vedi allo specchio questo, quindi vuol dire che c'è queste emozioni negative, quando in realtà ovviamente non c'è niente, il gioco non vuole essere morale o darti un giusto o un sbagliato, perché non c'è effettivamente, sono solo scelte e temi da affrontare, e quindi tu nel gioco ti confronti con gli altri personaggi sulla risposta a questo tema, cioè cosa vedi allo specchio. Tu, quindi il giocatore sceglie una carta, Kyle, Kira e Mike scelgono una carta e vedi cosa loro hanno provato, e poi tu devi subire sostanzialmente, più che subire, affrontare le conseguenze delle tue azioni nel gioco. Quindi se tu durante il gioco sei stato cattivo con i ragazzi, poi c'è un momento nel quale loro te lo dicono e ti confronti su questo, e quindi il gioco vuole concentrarsi su queste tematiche, e l'esperienza del giocatore è proprio questa, cioè di entrare in contatto con le emozioni degli altri per capirle, è un modo per comprendere anche le tue emozioni. Dialogare con gli altri significa anche dialogare con te stesso, perché se non ti conosci, se tu non sai cosa vedi allo specchio, non riesci neanche a vedere cosa gli altri vedono e non sai come mostrare la versione migliore di te stessa agli altri. E quindi questo gioco stimola proprio questa cosa, esatto. Ecco. Perfetto, Jacopo. Beh, insomma, un titolo veramente importante, insomma, tematiche sociali grandi, educative, suppongo che poi questo titolo comunque farà anche il suo giro in altri posti, ma ci arriveremo con calma, magari verso la fine ti farò una domanda apposita proprio su questo. Allora, invece, no, pensi che Nostalgici Anonimi possa influenzare in un modo particolare, cioè come posso dire, i giocatori come possono percepire la nostalgia e la loro relazione con il passato? Allora, questa è sicuramente una domanda molto interessante perché noi siamo partiti proprio da questo, cioè siamo partiti da cosa vivono i ragazzi di oggi, cioè, i ragazzi Kikomori o i ragazzi in terapia, i ragazzi in difficoltà, cioè su cosa si confrontano, cioè quali sono le problematiche che loro hanno. E sicuramente la nostalgia e la relazione con il passato è uno dei temi principali della società di oggi, e la nostalgia è usata anche a il Guarda i videogiochi, il cinema, i remake, remaster, questo genere di cose, insomma, che l'industria moderna continua ad appiopparci, perché pare che insomma, diciamo, la fantasia nel creare qualcosa sia un po' fine a se stessa ultimamente, cosa sbagliata, invece bisognerebbe investire su qualcosa di nuovo, invece attualmente, insomma, si tende insomma, a rifare opere del passato con remake, parlo dei videogiochi. Poi può capitare anche con i film, con reboot e cose varie. Scusami, Jacopo, non ti volevo No, interrompere, prego, ritorna. no, ma è tutto. Era una riflessione che facevo Ma dopo. è giustissima perché, appunto, cioè, il mondo di oggi ci ancora, diciamo, una serie di convinzioni del passato e di narrazioni del passato e non si creano narrazioni del presente e del futuro. Quindi questi ragazzi sono bloccati un po' come i ragazzi nel gioco. Ha una narrazione di se stessi che non coincide su come loro sono veramente. E questo è un po', secondo me, la nostalgia quando appunto diventa, nel videogioco diventa appunto una malattia, un problema, ma in realtà non lo è. Lo diventa nel momento in cui diventa limitante o viene limitata. Cioè, l'importante è che la nostalgia o comunque la relazione con il passato sia uno strumento attraverso cui costruire l'identità del presente e la versione migliore di te stesso in futuro. Quando è fatto così va bene, ed è quello che noi vorremmo ispirare col gioco, ecco. Perfetto, perfetto. Bene, ci avviciniamo alla parte finale proprio dell'intervista. Jacopo, io ho proprio delle ultimissime domande da farti. Intanto ci sono progetti futuri con il progetto appunto di Nostalgici Anonimi e soprattutto ci saranno anzi magari aggiornamenti, espansioni, non so, DLC, considerando anche il futuro del gioco. E cosa pensi, diciamo, che l'esperienza di sviluppo, sempre del titolo, Nostalgici Anonimi, che ribadiamo, si può trovare su Steam gratuitamente, e possa influenzare in qualche modo progetti futuri nel mondo del videogioco? Prego. Allora, grazie. Sì, sostanzialmente, Nostalgici Anonimi sono due capitoli che si giocano appunto su Steam gratuitamente, sia per Windows che per Mac. E il nostro obiettivo futuro è fare un ultimo capitolo nel quale tu vedi effettivamente tutte le conseguenze delle tue azioni e appunto si conclude questa storia. Abbiamo già pensato a una serie di elementi di gameplay innovativi che vorremmo aggiungere, cioè noi vorremmo entrare dentro ogni carta con ogni carta che ha un gameplay diverso e trovate anche un prototipo su internet di questo tipo di interazione che vogliamo fare. Questo perché questo è il nostro obiettivo. E appunto c'è una pagina su Discord e su Reddit dove noi vorremmo creare una community di giocatori perché il gioco è stato pensato appunto proprio per creare dialogo anche tra i ragazzi che giocano e appunto noi sviluppatori, insomma, vogliamo creare una community diciamo, di nostalgici che Non costruiscono. quei nostalgici, però. No, non quei nostalgici, ecco, di nostalgici anonimi, ecco, di amanti del gioco. Che costruiscano il resto del gioco insieme a noi, dicendo questo mi è piaciuto, questo no, vorremmo andare in questa direzione. Quindi il nostro obiettivo è finire questo gioco con questo nuovo capitolo. Abbiamo anche pensato a una versione fisica del gioco di carte che abbiamo nel gioco, che abbiamo portato nelle fiere, perché il gioco di carte si può fare anche dal vivo cambiando il tema o usando lo stesso tema, cosa vedi allo specchio, ma in un'ottica più cooperativa, dicendo: ah, ok, scegli una carta, ma scegli anche la carta che questo tuo amico potrebbe, secondo te, ha scelto. E questo ovviamente è divertente e stimolante. Non solo, poi noi vorremmo appunto che il gioco venisse portato di più nelle scuole, in terapia, come appunto strumento per entrare in contatto con le emozioni, non per finalità terapeutiche, semplicemente per stimolare, ecco, queste cose. E i miei prossimi progetti, io credo, cioè, mi sono trovato molto bene a sviluppare videogiochi che abbiano appunto una finalità di intrattenimento unito al a una componente più educativa, cioè UFU, che è sostanzialmente il progetto che con Magda abbiamo diciamo, di start-up di videogiochi, vuole fare proprio questo, cioè creare videogiochi che siano prima di tutto un prodotto di intrattenimento, ma con una finalità sotto educativa e soprattutto anche di self-help, di arricchimento personale, ecco. Perfetto, Jacopo. Beh, siamo ai messaggi finali. Diciamo, io intanto invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a seguire nei social Nostalgici Anonimi, UFU Interactive, Storytelling, insomma tutte le pagine dedicate al progetto di Nostalgici Anonimi. E visto che ci siamo, voi non lo potete vedere perché siamo appunto, ho questo privilegio che Jacopo mi ha portato proprio qui di fronte il premio, che è un premio che insomma, ribadisco, non è scontato vincerlo. Quindi rinnovo appunto i miei complimenti a Jacopo, perché comunque vincere insomma, Grazie. questo Oscar, perché letteralmente è come se fosse una sorta di Oscar del videogioco, è sicuramente un grandissimo traguardo. E niente, io diciamo, come hai un messaggio finale che vorresti condividere magari appunto con i giocatori, la community, eccetera? Allora, prima una cosa prima un po' più simpatica, cioè abbiate pietà per i bug che ci sono nel gioco e segnalateceli su Discord o su Reddit, perché appunto il gioco eravamo veramente un team molto piccolo, con un budget limitato, quindi se trovate dei bug fatecelo sapere, però su una nota più positiva ovviamente venite su Reddit e su Discord a costruire il resto del gioco con noi, spero che vi piaccia e soprattutto spero che vi aiuti a entrare in contatto con le emozioni, che vi stimoli quantomeno delle riflessioni. Quindi ecco, questo è quello che spero. Perfetto, Jacopo. Allora, grazie per essere venuto ospite della nostra trasmissione Grazie a di voi. A-Listen. Io congedo il mio ospite con l'ultimo pezzo selezionato da Jacopo. Parliamo di Mountains di Billy Clio. E prego la regia. E questo era l'ultimo pezzo di oggi, scelto dal nostro ospite Jacopo Mascolini. Io ringrazio, siamo ai saluti finali, ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Sono Andrea Tameli di Pirate Radio. Questa trasmissione che state sentendo è A-Listen. Vi invito a tutti quanti, qualora vogliate interagire, di seguirci sui social. Abbiamo Instagram, in futuro avremo una pagina Facebook. Per il momento abbiamo anche un Discord, un server Discord che vorremmo integrare per avere appunto una comunicazione migliore con anche gli ascoltatori. Quindi dalle prossime, se magari volete fare delle dirette, potremo parlare anche da lì. Maggiori dettagli li trovate appunto sulla pagina Instagram del programma, che è alisten.radio. Beh, siamo ai saluti finali. Ringrazio ancora appunto Grazie. Jacopo. Grazie a voi, grazie di avermi avuto qui. Grazie a te e a tutto il team di Nostalgici Anonimi e ringraziamo ovviamente, come dicevo, UFU Interactive Storytelling che comunque fa parte di Nostalgici Anonimi e ringrazio le radio, quindi Radio Grad, Gemini Network, il Brancaleone che ci ospita e che speriamo continui a lottare sempre per noi, Radio Sonar. Le chat e i social dedicati appunto al gruppo Pirate Radio. E noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre dalle 5 alle 6, sulle emittenti di Pirate Radio. E chiudo con la nuova sigla di chiusura del programma. A presto, ragazzi, e grazie per l'ascolto.